Gianfranco era una persona estremamente eclettica, coltissimo. Io direi, se dovessi riassumere in due parole, credo sia l'autore, l'artista più sottovalutato che abbiamo avuto in Italia, perché veramente ha fatto di tutto e quasi tutto, direi, molto bene. È stato il cantore degli anni 70, del 77, insieme a Lolli, direi. Solo che Lolli era più malinconico, se vogliamo, mentre Manfredi era profondamente ironico. Io personalmente ho legato la mia stagione del 77 proprio alle canzoni di Manfredi, tra le quali ce n'è una però che va al di là di quel periodo. Tutte fotografano quel periodo molto bene, con molta ironia, però ce n'è una che, ma chi ha detto che non c'è, ormai una canzone di 50 anni fa, ma suscita ancora qualcosa nelle corde emotive anche dei più giovani. È una canzone, per me è una delle canzoni più belle del secondo Novecento. Poi non è soltanto questo Manfredi, anche se io sono legata particolarmente a questo. Manfredi è stato un romanziere molto bravo, ha scritto moltissimi romanzi e io mi sono sempre domandata perché non sia diventato popolare, perché non abbia raggiunto quel successo che meritava. Tra l'altro, guarda, una cosa strana, Manfredi spesso ha anticipato le mode, per esempio negli anni 80 pubblica una raccolta di racconti chiamata Ultimi Vampiri, molto bella, sulle evoluzioni del vampiro, molto prima che poi arrivi, diciamo così, la moda del vampiro con il Dracula di Bram Stoker di Coppola, l'intervista col vampiro di Neil Jordan, eccetera. Poco dopo scrive un libro che si chiama Trainspotter. Siamo ancora negli anni 80, per arrivare a Trainspotter che si bisognerà aspettare 10 anni. Ecco, questo per dirti, era una persona che aveva l'occhio avanti, diciamolo pure. E soprattutto lui ha scritto quello che secondo me è uno dei romanzi più belli del tardo Novecento italiano, che si chiama Cromantica. Un romanzo che è ambientato nel mondo dell'arte, dove c'è tutto un gioco di intreccio di piani tra il presente e il passato, tra personaggi reali del mondo dell'arte passata e personaggi fittizi, nel quale lui riproduce tutta una serie di registri, mettendo in campo delle finte lettere, dei finti documenti che si suppongono ritrovati dal passato, eccetera, scritti esattamente nello stile e nel modo in cui si scriveva quel tempo. Quindi un lavoro, quello che si chiama un tour de force, eccezionale. Un libro che io penso sempre, se fosse stato pubblicato in Inghilterra, sarebbe diventato un classico. E questo per quanto riguarda i suoi romanzi, che sono tanti, e ti ho citato solo quelli che veramente avrebbero meritato una maggiore conoscenza. Un altro è Il piccolo diavolo nero, sul ciclismo all'inizio, i primi giri d'Italia all'inizio del Novecento. Tutti i romanzi, tra l'altro, per scrivere i quali lui faceva delle ricerche enormi, era uno che studiava sempre, non c'era niente di lasciato al caso in quello che faceva. Poi ha scritto moltissimi dei saggi, ultimamente scriveva soprattutto saggi, ha scritto dei saggi, una trilogia, diciamo così, di saggi per derive a Prodi, sul romanzo, sui romanzi scomodi, quindi quelli che sono stati censurati, bloccati, eccetera, un po' in tutto il mondo, sulla cultura popolare e sul collasso della coscienza borghese, dall'uomo della folla di Edgar Allan Poe fino all'uomo senza qualità di Musil. Anche questi saggi scritti con la sua penna molto vivace, molto ironica, tutt'altro che accademica. Cioè, qui in questi saggi si realizza la cosa quasi impossibile di leggere con piacere dei lavori di critica letteraria, leggerli come se fossero dei romanzi veramente. Aveva questa capacità proprio di questa vivacità enorme nella sua penna. E poi ha scritto quello che è il compendio, appunto, del 77, un librone dove elenca tutto quello che ha presentato il 77, quello che c'era nel 77 in qualsiasi campo della cultura, ed è un compendio di studi culturali del 77 che ha intitolato Ma chi ha detto che non c'è? Aggiungiamo, certo, lo metto per ultimo perché questa è la cosa che a me interessa meno, ma per cui era più popolare da tempo, era uno sceneggiatore, è stato sceneggiatore per il cinema, ma soprattutto era uno sceneggiatore di fumetti. Con i fumetti aveva raggiunto un certo pubblico di fan che lo seguivano, aveva inventato questo personaggio chiamato Magico Vento che aveva, mi dicono, aveva un grosso successo. Paradossalmente, in un certo senso, è quello che poi alla fine, dopo le canzoni degli anni 70, gli aveva dato più successo. Io ripeto, per me rimane, oltre che uno dei miti della mia giovinezza, rimane un ottimo romanziere e saggista. E io continuo a domandarmi perché mai non abbia raggiunto quel successo che senza dubbio si meritava.